Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti si ascoltano. Questa sera parliamo di Cina, parliamo della Cina e dei suoi interessi, dei suoi affari e soprattutto per quanto riguarda l'Italia, il fatto che la Cina sta diventando una componente importante della realtà italiana con le sue acquisizioni, con la sua presenza all'interno del mercato italiano e con il fatto che ormai la Cina fa parte del mercato globale. E quanto fa parte del mercato globale lo vedremo appunto con una persona che di Cina se ne intende. Buonasera Mariangela Pira. Buonasera a tutti. Mariangela Pira, giornalista di CNBC Class, ha seguito e segue le vicende cinesi regolarmente e ha scritto un libro che si intitola Forza Cina con due Z, un po' forse per prendere in giro anche come parlano i cinesi, ma non per prendere in giro in senso cattivo, in senso ovviamente bonario. Dalla Pirelli alla moda al calcio, l'Italia sta diventando una colonia cinese, si chiede il titolo di questo libro edito da Baldini e Castoldi. Allora, Forza Cina, ma com'è nato questo titolo, Mariangela Pira? È nato con la famosa frase del presidente Zhang, il presidente dell'Inter, il quale disse in una fase di entusiasmo post acquisizione dell'Inter, Forza Inda, video che diventò virale. Quindi da lì abbiamo pensato a Forza Inda, ma sembrava troppo particolare che riguardasse solo il calcio, solo l'Inter soprattutto, quindi lo abbiamo trasformato in un Forza Cina. Ecco, il Forza Cina per dire appunto che la Cina è presente e quindi anche la Cina lotta insieme a noi in un certo senso, non solo l'Inter ma anche il Milan, non solo calcio ma anche altre cose. Come si è sviluppata negli ultimi anni la presenza dei capitali e anche dei manager cinesi in Italia, Mariangela Pira? Sicuramente con la Pirelli 3 anni fa abbiamo avuto l'apice, il clou di questa presenza cinese in Italia. Presenza che è diventata nota a tutti i cittadini italiani quando ovviamente i cinesi poi hanno acquistato le squadre di calcio. Sappiamo insomma la presa che il calcio ha nel nostro paese. Ma se andiamo a vedere le statistiche, i cinesi sono stati presenti qui per la prima volta nel 2008. E poi questa presenza si è lentamente all'inizio sviluppata e poi ha avuto il suo apogeo nel 2013-2014, quando essere acquisiti sono stati i marchi della moda, cito Crizia, oppure marchi industriali come per l'appunto Pirelli, per cui una presenza che è stata costante nel tempo e che poi a un certo punto però è accelerata sicuramente ed è cresciuta raggiungendo i livelli attuali. C'è da dire però che dopo Pirelli, che è stato proprio il boom della presenza cinese non solo in Italia ma anche in Europa, falsando proprio i dati dello scambio commerciale, e dall'anno dopo poi ovviamente le cose sono cambiate, nel senso che almeno dal punto di vista numerico c'è un rallentamento, perché appunto l'acquisizione di Pirelli è stata comunque evidentemente molto molto più grande rispetto a quelle precedenti. Ecco, comunque c'è un capitolo di questo libro, ricordo appunto il titolo Forza Cina, che si intitola I cinesi nel salotto buono della finanza. Possiamo giudicare la Cina ormai un paese capitalista? Questa è una bella domanda. Come abbiamo visto nell'ultimo congresso, dire capitalista è sicuramente non è molto veritiero. È un paese capitalista socialista, nel senso che è capitalista quando si tratta di attrarre degli investimenti nel proprio paese e invece è meno capitalista quando si tratta del controllo dei cittadini cinesi, quando si tratta dell'uso dei social in Cina, quando si tratta di toccare tutte quelle regole che a noi sembrano normali e quindi sembrano quasi dei diritti acquisiti, ma che in Cina non lo sono affatto. Soprattutto se guardiamo all'aspetto della vita di tutti i giorni, della vita sociale cinese. Ecco, questo per quanto concerne però l'economia è come dici tu. Sì, ma indubbiamente questo visto dalla Cina è vero, però visto da noi, dall'Italia, dall'Europa, in fondo la Cina si sta comportando come qualunque altro investitore internazionale, quindi è sullo stesso piano degli altri fondi di investimento americani o europei che siano. Sì, dal punto di vista del chip, del gettone economico è così. Noi nel libro parliamo di questo, coniamo questo nuovo termine, una sorta di piano Marshall alla cinese, ovvero tutto il progetto che la Cina ha nell'Eurasia, vuole porsi come leader di quest'area, vuole sicuramente cercare di attrarre i vari paesi che sono in Eurasia, e non parlo solamente della Germania, della Polonia, parlo proprio anche del Kazakistan, per esempio, di tutti quei paesi che sono vicinissimi anche all'area della Russia. Cosa fa la Cina? Va lì e dice: ecco 10 miliardi di dollari, ricostruiamo questo. Ecco 20 miliardi di dollari, ricostruiamo quest'altro. Questo evidentemente noi l'abbiamo definito un piano Marshall alla cinese, perché, come dici, evidentemente loro danno delle fish e questo permette loro però l'ingresso in un paese dove prima non potevano fare il loro ingresso. Per cui sicuramente da questo punto di vista è vero. Io direi un paese che ha un'egemonia in questo momento assertiva di geopolitica economica, non certamente però culturale, come per esempio continua a esercitarla nei nostri confronti gli Stati Uniti. Ecco, ma in questa prospettiva, un capitolo del libro in maniera molto significativa parla anche degli sforzi cinesi di aumentare, di ampliare i collegamenti con l'Europa, collegamenti navali, collegamenti terrestri, collegamenti ferroviari. Ecco, c'è peraltro un mini capitolo in cui si dice che i treni dalla Cina arrivano pieni ma ritornano vuoti, quindi c'è ancora qualche passo da fare per mettere sullo stesso piano l'Europa e la Cina. Esatto, questo richiama una parola chiave che è reciprocità, su cui noi lavoriamo molto, cercando non tanto di dare delle soluzioni, quanto comunque di porre sul tavolo dei problemi. In questo momento la situazione è questa: la Cina chiede e spesso le si viene dato. Mentre invece quando si tratta con la Cina, si ha a che fare con la Cina, noi dovremmo cercare di ricavarne un po' di più. Cosa che invece non accade adesso, non c'è assolutamente reciprocità. Ne citiamo anche un altro aspetto che può servire anche agli ascoltatori. Vi faccio un esempio molto banale. La Cina sta costruendo la ferrovia che dal Pireo, che loro hanno acquistato, arriverà in centro Europa. Ora, per fare questa ferrovia, finché erano in Serbia, tutto a posto. Quando sono arrivati in Polonia, paese dell'Unione Europea, era meno a posto, perché la Polonia deve come dire, attenersi a quelle che sono le regole della partecipazione ad una gara pubblica. La Cina non ha partecipato a una gara pubblica, ha fatto un accordo col governo e ha pensato bene di iniziare a proseguire la costruzione di questa ferrovia. C'è stato l'alto là di Bruxelles, perché hanno detto: eh no, se voi volete costruire la ferrovia qui, dovete partecipare alla gara pubblica. Mentre loro dicono: no, non funziona in questo modo, abbiamo fatto un accordo col governo. In questo senso dovremmo essere un po' più attenti, perché se andasse una nostra compagnia e decidesse in una regione cinese, facciamo finta, il Sichuan, di costruire una ferrovia, non glielo farebbero fare, perché ci sono delle regole, regole alle quali difficilmente si attengono quando invece sono in Europa. Quindi fanno un po', vogliono farlo un po' da padroni, per dirla in estrema sintesi. Sì, io direi così. Questo anche per sicuramente cultura, per mentalità, per un tentativo anche di rivalsa. Sicuramente loro sanno che possono essere in questo momento l'alter ego degli Stati Uniti. Hanno una grande occasione e vogliono percorrerla. Nulla di male in questo. L'unica cosa è che se tu fai parte del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con quelle regole devi imparare a giocare. E sembra banale dirlo, tra l'altro, sembra una frase banale da dire, però nel nostro reportage abbiamo scoperto che in molti casi non è così. Ecco, ma in questa prospettiva la Cina è certamente un partner importante. Tra l'altro il libro si conclude con una domanda: può l'Italia sfruttare al meglio questa attenzione cinese, per esempio nel settore turistico? Sappiamo già che si stanno avviando molti cambi sotto questo fronte, gli arrivi dei cinesi stanno aumentando, però in maniera abbastanza limitata per ora. Può essere questa un'altra prospettiva, oltre che le partnership industriali che abbiamo visto, appunto come quella di Pirelli o come quella sportiva con Inter e Milan? Sì, assolutamente. Da entrambe le parti, molti marchi della moda mi raccontano che se in questi anni non ci fosse stata la Cina, i loro conti sarebbero stati ben diversi. D'altra parte poi ci sono i turisti cinesi, crescono di anno in anno e crescono a doppia cifra, e questo evidentemente significa molto anche per le nostre aziende qui. Ricordo che lo scontrino medio più elevato è proprio quello dei cinesi, che supera i 1000 euro di scontrino medio, quindi ad acquisto, quando sono per esempio in una città come Milano. L'Italia però rappresenta anche sicuramente altro, penso per esempio alla via marittima. In questa nuova via della seta che stanno costruendo i cinesi, certamente loro hanno fatto la loro scelta acquistando il Pireo, e non per farlo diventare ovviamente l'isola del Pireo, ma per collegarlo al centro Europa. Però se pensiamo alla via marittima nostrana, per esempio, la nostra portualità è di grande importanza. L'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno sono vicini al cuore dell'Europa occidentale e orientale. Già oggi sono connessi con ottimi collegamenti. E i nostri porti, per come la vedo io, per come la vediamo noi dopo aver scritto questo libro, non sono alternativi al Pireo, ma complementari. Le connessioni tra Pireo e Europa centro-orientale, terrestri e via ferrovia, devono essere in gran parte peraltro ricostruite, e come ben sapete siamo noi che abbiamo acquistato le ferrovie greche, per cui abbiamo anche interesse a sviluppare direttrici per cui esse stesse possano funzionare e per cui offrire anche delle alternative. Ecco, quindi diciamo, per concludere, Mariangela Pira, che la Cina è una grande opportunità sia per le trasformazioni che stanno avvenendo all'interno del paese, pur se rimane un paese in un certo senso socialista, autoritario, centralizzato e statalista, ma sia anche perché l'Europa in fondo ha bisogno di nuove risorse, di nuovi sbocchi, di nuove opportunità. Assolutamente, direi che questa è... non avrei fatto una sintesi migliore, è esattamente così, nel senso che comunque noi abbiamo bisogno in questo momento di opportunità, come sappiamo bene, come voi sapete bene, anche i francesi approfittano di opportunità nel nostro paese, quindi perché non i cinesi? L'importante è, come dire, fare una due diligence, i cosiddetti compiti a casa, prima di vendere una grande partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti Reti, perché loro sanno benissimo dove stanno andando a parare. Certo. E l'importante è che anche noi sappiamo dove stiamo andando. Grazie a Mariangela Pira di averci introdotto anche in questo mondo, che ci sembra lontano ma che è molto vicino, come abbiamo visto negli ultimi tempi a noi, che è il mondo della Cina, che ormai fa parte della globalità. Ma per chi vuole ovviamente saperne di più, il libro è Forza Cina, scritta da Mariangela Pira insieme a Sabrina Carreras, dalla Pirelli alla moda al calcio, l'Italia sta diventando una colonia cinese, edito da Baldini e Castoldi, sono 180 pagine per 16 euro. Grazie quindi a Mariangela Pira, grazie a Luca Cremonese in redazione, a Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento con Economia in Pagine è per domenica prossima.